24 mattino. Simone, ci stanno a fregare. La riforma del fisco, intesa come detrazioni e deduzioni che le persone possono effettuare sulla propria denuncia dei redditi, è una fregatura, è chiaro, Pietro Senaldi dice di Conte seduttore. Ma perché Salvini, Berlusconi, cosa sono stati? Cosa promettevano? Milioni di posti di lavoro? Salvini avrebbe tolto le tasse sulla accise sulla benzina. E come parla poi Salvini? Quante promesse che fa? Scusatemi, ma se io sono in quarantena Covid e sono registrato e ho l'app, ma io non mi porto dietro il telefonino per far sapere anche al mio vicino che io sono in giro a contagiare la gente. Perché se sono in quarantena e vado in giro vuol dire che non sono responsabile. Allora, su quest'ultimo punto, innanzitutto si spera che lei, che uno sia responsabile e se è positivo stia a casa, ma chiaramente l'app ti serve per ricostruire retroattivamente qualche movimento, ossia nel momento nel quale una persona si scopre che una persona è positiva e ha questo codice unico assegnato al suo telefono, le altre persone che hanno attivato l'app possono sapere: guarda, nelle due settimane precedenti tu hai incontrato un positivo, e quindi non serve per quando già sai che è positivo, ovviamente, perché si spera che questa persona sia in quarantena. Ti serve per ricostruire un po' il suo passato, i suoi movimenti passati e i contatti passati. Questo dovrebbe servire. Poi, chiaramente, come si diceva, forse arriva tutto un po' tardi, forse arriva con tutti i dubbi relativi al fatto che, essendo volontaria e diversamente non si può fare, bisogna vedere quante persone la installeranno, quante persone la utilizzeranno. Questo è. Sulla riforma fiscale, adesso non so se sarà una fregatura, non credo, cioè penso che, voglio ben sperare che le intenzioni del legislatore, anche se in tema fiscale qua non si scappa, quando possono metterci la sola tendenzialmente ce la mettono, la dico alla romana, però voglio ben sperare il legislatore nel riordino del sistema fiscale pensi a come, se non farci pagare meno tasse, per carità, non oserei mai chiederlo, per carità, non pagare meno tasse, no, se non pagare meno tasse, quantomeno renderci più facile la vita, più facile, e rendere più equilibrato un sistema di deduzioni e detrazioni sul quale si pensa di metter mano da anni, non solo per i privati ma anche per le imprese. Se ne discute costantemente. Guardate, devo dirvi la verità, non so quanto crederci, il ministro Gualtieri mi sembra una persona seria, però troppe volte abbiamo sentito parlare i governi di rivoluzione nel sistema fiscale, un fisco più vicino ai cittadini, un riordino, e poi le cose sono arrivate molto raramente col contagocce, perché c'è un mondo che in queste complicazioni ci sguazza e lo sappiamo perfettamente. È la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, ed è venerdì 5 giugno. Sono le 7:22 e veniamo, come sempre, ad un'occhiata innanzitutto ai titoli dei giornali. Oh, se volete continuare a intervenire c'è sempre il 349-238-6666 per SMS, messaggi su WhatsApp, anche audio, le vostre voci. Siamo in diretta su Facebook, quindi se volete siamo anche là. Alcuni giornali dedicano l'apertura alla Banca Centrale Europea, che sicuramente è, mi pare, la notizia più rilevante di ieri dal punto di vista, quantomeno dal punto di vista economico, ed è questo allargamento dello scudo. La BCE raddoppia lo scudo antivirus, è il titolo del Sole 24 Ore, che tra l'altro riporta un intervento di Nicola Zingaretti, il segretario del PD, che dice sì al MES molto nettamente. E poi si parla sul Sole 24 Ore anche del piano boom tedesco da 130 miliardi. Ci arriviamo tra un attimo, perché poi qualche ascoltatore ce ne ha scritto. La BCE raddoppia il bazooka, il titolo del Messaggero, spinta da 600 miliardi è quello del Corriere della Sera. Burocrazia Covid, Italia strangolata, il titolo del quotidiano nazionale su tutte le regole che ci sono in questo momento, dal commercio all'edilizia, nuove regole che impediscono la ripresa. La Stampa ci parla dell'Europa e del piano per il vaccino anti-Covid. C'è anche un'intervista a Bill Gates di Paolo Mastrolilli. Il Giornale parla di una sinistra di sciacalli e il riferimento è alle parole, alle frasi di Pierluigi Bersani, quelle che vi abbiamo fatto sentire poco fa, con Bersani che dice: con la destra al potere non sarebbero bastati i cimiteri, o meglio, ha detto: mi viene il sospetto che con questi al potere non sarebbero bastati i cimiteri. Questo governo studia come affossarci meglio, il titolo di Libero, che anche qua dedica spazio alle grandi opere sospese, 70 e non si sa perché. Occultano i contagi con meno tamponi, titola il Fatto Quotidiano, con le foto di De Luca, il presidente della Regione Campania, Toti, quello della Liguria, e Fontana, quello della Lombardia. Anche il Manifesto dedica il titolo alla Banca Centrale Europea e guardate che, come al solito, le scelte del Manifesto non sono male, come titoli. Abbiamo una banca, per chi si ricorda le intercettazioni dell'estate dei furbetti del quartierino e via dicendo. Abbiamo una banca, non male, non male, sulla BCE. Avvenire, che apre sulla giornata dedicata all'ambiente, ne avete sentito poco fa anche la controcopertina di Cristina Carpinelli. Per guarire noi va curata la casa comune, il titolo di Avvenire. Tra l'altro oggi il Corriere della Sera lo trovate in una, proprio per questo motivo, in un'edizione curiosa, perché è verdino, è color verdino, è stato stampato verdino, perché se volete vederci su Facebook lo tengo qua sotto mano in maniera che possiate vederne e apprezzarne questo colore, per quanto si possa vedere qua dalle telecamere che abbiamo nei nostri studi. Iniziamo come sempre da qualcosa di un po', diciamo, in questo caso in realtà qualcosa di centrale, perché ha a che fare sia con Covid sia con la reazione economica, e vi voglio portare su due commenti prima di tutto nella giornata di oggi. Innanzitutto qualcosa alla quale io non riesco a sfuggire, perché è sempre interessante e importante leggere la rubrica Cattivi scienziati di Enrico Bucci sul Foglio, il professor Enrico Bucci, il quale ci porta su un tema molto dibattuto in queste ore, che è l'uso della clorochina nella lotta al Covid-19, nella lotta al virus. Cosa è successo nelle scorse ore? Nelle scorse ore è successo che uno studio che era stato presentato su Lancet, che era stato pubblicato da Lancet, che bocciava la clorochina e anzi ne metteva in evidenza i pericoli, ebbene è stato ritirato, o meglio, delle quattro persone che l'hanno firmato, tre hanno deciso di ritirare la firma, a testimonianza che c'è qualcosa che non vuol dire che la clorochina funzioni, vuol dire semplicemente che quello studio evidentemente non era scientificamente abbastanza accurato. E ne scrive Enrico Bucci, segnalando secondo me uno spunto importante in un periodo nel quale ci troviamo ad un in una fase nella quale si intrecciano la politica e la scienza. La vicenda della clorochina è la perfetta testimonianza del cortocircuito che si crea. La clorochina è stata fin dall'inizio, scrive Bucci, il simbolo di come la polarizzazione politica faccia deragliare la discussione scientifica tra sostenitori e oppositori, fra cui molti scienziati legati alle posizioni espresse magari frettolosamente in un tweet, che sono poi incapaci di distaccarsi da quelle e di riprendere l'analisi scientifica dei risultati. È iniziata quindi una vera e propria contesa che di scientifico ha ben poco, tutta tesa a pubblicare velocemente risultati che provassero che la clorochina funziona, che la clorochina non funziona, che la clorochina è pericolosa o è sicura, in una ridda di pubblicazioni, passi e contropassi che si potrebbe chiamare clorochineide a futura memoria. Tuttavia non tutti sono disposti ad assistere a questa spettacolare produzione di scienza debole o fallata per fini diversi da quelli della ricerca di una soluzione reale, perché Bucci fa parte, e lo racconta qua, di un gruppo di 182 scienziati di tutto il mondo che, equamente divisi tra oppositori e sostenitori della clorochina, ma interessati innanzitutto alla salvaguardia del metodo scientifico, che insomma hanno chiesto a Lancet di rivedere quell'articolo, e grazie a questa protesta organizzata da 182 scienziati è esattamente quello che è avvenuto. È il tema di quando la politica e la scienza si mescolano, ed è un tema, guardate, delicatissimo in una fase come questa. Un altro commento che vi voglio leggere è quello relativo alla risposta economica. Che risposta economica dare al virus, alla crisi creata dal virus? Ebbene, Alberto Rioli sul Sole 24 Ore, si firma in sigla, ma insomma è lui sul Sole 24 Ore, il vice direttore del Sole 24 Ore, firma un commento dedicato al piano tedesco contro la crisi da Covid. Quello che nel titolo principale del Sole 24 Ore, a fianco alla BCE, viene chiamato il piano boom tedesco da 130 miliardi, e ha ragione. Il pezzo è molto breve e ve lo leggo perché dà un po' il segnale di come, francamente, di come si fanno le cose. C'è un poker di numeri che racconta il piano tedesco per il rilancio. 21. Le ore di trattativa tra i leader di CDU, CSU e SPD per arrivare a un testo condiviso. 130. I miliardi di euro mobilitati che si aggiungono ai 353 già stanziati a marzo e agli 800 di garanzie pubbliche. 4. La quota di PIL mobilitata per scuotere l'economia congelata dal virus. E infine quello che mi piace di più, ve lo dico francamente, è 15. Il numero di cartelle del documento di sintesi che cambierà la storia dell'economia tedesca. Quindi solo 15 cartelle. 15 pagine. Diretto e semplice. Mobilitare come mai prima la domanda interna, la leva finora mancata allo sviluppo e alla crescita di tutta l'Unione. Poche priorità. Tutte sugli investimenti. Auto elettrica, ferrovia, rete digitale. Poi un taglio da 20 miliardi per l'IVA e 300 euro di bonus a bambino. Lezione di leadership, di responsabilità, di lungimiranza, soprattutto di pragmatismo. Per un'Italia dove prestiti, ammortizzatori e bonus sono più detti che fatti. Dopo le task force, ora tocca agli stati generali. Ai tedeschi è bastato chiamare il piano Der Wurm. Tradotto sta per boom. Non evocherà la rivoluzione francese, ma rende l'idea, scrive Alberto Orioli. E questi sono i due commenti con i quali apriamo oggi la rassegna stampa, che con la quale vi voglio portare molto rapidamente, perché poi ci sarà la parte dedicata con Paolo Mieli, nella quale dedicheremo ampio spazio alla Banca Centrale Europea e al MES, e quindi a tutte le tensioni politiche che ciò si porta. Innanzitutto alla protesta, vi vorrei portare un attimo sulla protesta dei sindaci. Protesta dei sindaci che adesso arriva, dei sindaci soprattutto delle città balneari, per questo documento dell'Istituto Superiore di Sanità nel quale si dettano le linee guida per andare al mare, nelle quali si prevede che si debba stare distanziati di un metro anche in acqua e devono stare distanziati di un metro anche i bambini. Parliamoci chiaro, questa cosa è impossibile da far rispettare. E i sindaci glielo dicono chiaramente, o quantomeno diciamo di estrema difficoltà. Ci saranno percorsi differenziati con le indicazioni bilingue, scrive il giornale a pagina 13 con Tiziana Paolocci, mantenere la distanza di almeno un metro in spiaggia e in acqua anche tra i bambini. Con oltre 7.000 km di costa e un numero elevato di aree di balneazione abitate da 17 milioni di persone, scrive l'Istituto Superiore di Sanità, che possono anche raddoppiare in alta stagione, può diventare significativo il rischio riconducibile al turismo balneare. E dunque, distanza di un metro anche in acqua. È impossibile, dice il sindaco di Bari Antonio De Caro, far rispettare le nuove regole sulle spiagge libere. Lo ha detto senza mezzi termini. Scrivere prescrizioni è semplice, provare a farle rispettare su tutte le spiagge d'Italia è come svuotare il mare con un secchiello. bucato, aggiunge De Caro, perché dice già solo nella mia città con 42 chilometri di costa far rispettare una cosa di questo genere è impossibile. E poi la scuola, le regole per la scuola, qual è la novità? La novità sono le ipotesi di plexiglass, muretti in cioè divisori in plexiglass tra i banchi, l'ha evocata ieri la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, lo prendiamo dal Corriere della Sera, pagina 13, visiere invece delle mascherine anche per andare incontro alla socialità e alle esigenze di studenti con difficoltà respiratorie e ipoacustiche e divisori in plexiglass tra i banchi per garantire maggiore sicurezza. Sono le ipotesi che la ministra Lucia Azzolina ha presentato ieri sera nel corso della riunione con i sindacati e con il premier Giuseppe Conte sul rientro degli studenti a scuola a settembre. L'obiettivo è portare tutti a scuola in presenza, con particolare attenzione ai più piccoli che hanno sofferto maggiormente in questo periodo, ha detto la ministra in apertura dell'incontro. Ma come? E appunto il documento che gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico ha presentato potrebbe essere rivisto nelle prossime settimane, laddove i contagi fossero minori. Nulla ci vieta di pensare che a settembre si possa tornare nelle aule come ci siamo sempre stati, spiega Azzolina, ma bisogna prepararsi a vari scenari. E dunque arriva l'ipotesi del plexiglass tra gli studenti. Una pausa. State ascoltando un programma offerto da Centrosoftware.com, il miglior ERP per la tua impresa. Mattino. Ma sì, come fa a notare l'ascoltatore giustamente la frase "ma abbiamo una banca" era la frase, così la precisiamo meglio, era la frase di Piero Fassino in una famosa intercettazione con Giovanni Consorte ai tempi della scalata Unipol su BNL, che infinite polemiche suscitò. L'abbiamo citata quella frase perché, caro Paolo Mieli, buongiorno, è l'apertura del Manifesto, il titolo di apertura del Manifesto, che è uno dei quattro giornali che apre sulla Banca Centrale Europea, no, e sull'espansione del programma di acquisto di titoli. Buongiorno Paolo. Buongiorno, qui la cosa curiosa è che io mi sarei aspettato che tutti i giornali aprissero sul fatto che la BCE raddoppia di fatto lo scudo antivirus, e invece alcuni ci credono meno. Cioè, quello che una settimana fa sarebbe stato veramente il titolo di tutti, adesso basta. C'è qualcosa di volta pagina, cioè questa attesa messianica di soldi che arrivano dall'Europa, innanzitutto perché, come si sa, la Corte Costituzionale tedesca, Karlsruhe, ne abbiamo parlato più volte, mette poi dei dubbi e dei paletti a queste erogazioni di fondi da parte dell'Europa, o comunque la partecipazione della Germania a questa erogazione dei fondi. E poi adesso provo a dire, ma sì, proprio ci provo da sole 24 ore. La BCE raddoppia lo scudo antivirus, quindi dà un sacco di soldi, ottimo, sì. Alcuni giornali di destra dice vedete che non c'è bisogno del MES, però la seconda parte del titolo del sole 24 ore è piano boom tedesco da sì. 130 miliardi, e c'è un corsivo in prima sì. pagina. Sì, l'abbiamo letto, quello di Alberto Orioli, abbiamo letto nella prima parte, esatto. Questa sulla lezione di pragmatismo. Sì, ma l'ho sentito. Questa cosa significa che mentre noi in Italia aspettiamo questo arrivo di fondi, come dice anche l'editoriale di Dario Di Vico sul Corriere della Sera, dice noi discutiamo adesso se rimetterci al lavoro sul ponte, sullo stretto di Messina, e vediamo che sul Foglio c'è un articolo che dice che anche tra i 5 Stelle c'è qualche apertura, insomma lo sappiamo, no? Quando si comincia a discutere il ponte sullo stretto di Messina si sa quando si comincia, non si sa dove si va a finire. I tedeschi invece ci danno questa lezione di pragmatismo, dice, ripeto, anche Dario Di Vico su Corriere della Sera, ci impariamo un po' dalla Germania, questi in 5 minuti hanno fatto si sono messi d'accordo in 21 ore, hanno sì. fatto una discussione fra i principali partiti tedeschi, hanno fatto un documento brevissimo, 15 pagine, e partono subito in maniera operativa. Noi stiamo lì, ci trastulliamo e discutiamo, sì, forse va bene, vedremo, e sembra più da parte dell'Italia in passaggi tattici, nello stesso tempo, come sempre, come abbiamo visto, Conte l'altro giorno aveva annunciato che faremo una grande conferenza, gli stati generali, piano di rinascita, adesso da Repubblica vedo un articolo di Tommaso Ciriaco che il Premier è a caccia di VIP e corteggia anche Draghi per la partecipazione a questo grande incontro, nello stesso dubito che Draghi sì. faccia coinvolgere. Sempre da questo articolo dice che ci sono ancora tensioni con Colao che sì. guidava la precedente task force. Il quale ha completato il lavoro, consegnato e sta per consegnare il lavoro a Giuseppe Conte, lo stesso Conte l'ha annunciato. Lo so che tu mi vuoi spingere a fare delle ironie su questi lavori, per carità. Arriverà questo lavoro, però tutto l'articolo della pagina fianco, pagina 7 di Repubblica, la tentazione di Conte è candidatura al Senato, siccome si è aperto un seggio che bisogna rivotare in Sardegna, Conte pensa, per blindare il governo, così dice l'articolo di Claudio Tito, di partecipare a queste elezioni suppletive in Sardegna e farsi eleggere in Senato. L'idea sarebbe rafforzarsi presentandosi col sostegno della maggioranza giallorossa. E mi sembra, adesso io mi auguro, ovviamente sono molto patriottico, ma mi sembra tutto molto un passo indietro rispetto sì. alle necessità. Gli altri paesi ripartono, io questo lo ridirò a tamburo ogni volta, che adesso ci si misura sui fatti, non ci si misura più sugli annunci, vedremo, faremo una conferenza, coinvolgiamo Draghi, Colau, chi vuoi tu, Renzo Piano sembra che voglia coinvolgere, poi e nello stesso tempo però non si riparte mai perché i soldi non arrivano, ci sono le difficoltà di cui tutti leggiamo sì. e quindi anche questo bazooka, raddoppio del bazooka, tant'è vero che proprio, scusami, oggi è quasi tutto Sole 24 Ore, almeno per questa sì. parte, il Sole 24 Ore pubblica in prima pagina un articolo di Nicola Zingaretti, dice perché dico sì al MES senza se e senza ma, sì. cioè vuol dire che premo, no? Perché dal MES arrivano soldi immediatamente e per un piano che, come abbiamo già visto l'altro giorno, sempre con un articolo del Sole 24 Ore, vale 20 miliardi, ma in cui il ministro Speranza ha preparato i modi per chiedere questi soldi, che sono soldi, ricordiamolo, per la sanità, quasi esclusivamente per la sanità, e invece il resto sono chiacchiere, Comunque dico molto netto Zingaretti oggi sul MES, sul meccanismo europeo di stabilità, insomma, ad aprire un fronte interno alla maggioranza che oggettivamente no, mi pare certo, che oggettivamente ci sia, dovrebbe esserci no ancora dei 5 Stelle, però se Zingaretti la mette in questi termini, che come tu giustamente dici sono molto netti, vuol dire che avrà avvertito Conte che scriveva questo articolo. Sì, non è un caso e non so se intendi collegarlo, Paolo, che la Repubblica oggi apra su sanità la nuova paura, il tema sono i milioni di visite, 500.000 interventi rinviati per il Covid e il rischio di ingorgo negli ospedali, e un presidente della regione Toscana, Rossi, che dice utilizziamo appunto i fondi del MES per le cure, insomma tutto si tiene, mi pare. Questo è concreto, dici, Repubblica dice la sanità bloccata per colpa del virus farà più morti dell'epidemia, è una tica Michele Boccia, errori Cappelli, scusate, l'allarme dei medici, persi 3 mesi di cura, saltati 500.000 interventi e 12 milioni di esami radiologici. Anche facendo gli straordinari ci vorrà quasi un anno per recuperare il ritardo che abbiamo avuto nella sanità. Cominciamo dalla sanità, questo sembra suggerire Repubblica, anzi suggerisce sicuramente Repubblica, e ricominciamo da qualcosa, perché sennò di chiacchiere rischiamo di morire e soprattutto di far morire l'economia. Se vi permetti vorrei segnalare che la Repubblica apre però con un involucro, salviamo la natura, dedicata alla giornata dell'ambiente che è oggi, e anche il Corriere della Sera. È verde. Avranno una sorpresa perché è quasi irriconoscibile, il giornale è tutto stampato in verde. Il Corriere Verde per l'ambiente, ci sono poi pagine, interviste, chi è interessato, da pagina 35 a 47, cioè 12 pagine dedicate all'ambiente, e sì, grande sorpresa adesso per gli affezionati, pochi affezionati come me alla carta stampata, oggi andranno e dicono che troveranno un Corriere della Sera tutto verde, verde, mai successo. Verde, esatto. Traffico. Mattino. Riapriamo questa seconda parte cambiando argomento, non cambiando però quotidiano, nel senso che rimaniamo sulla Repubblica, perché è il giornale, Paolo, che mette maggiormente in evidenza le notizie che arrivano dalla Libia, che sono molto importanti per il nostro paese e per quello che succede nel Mediterraneo, ossia la vittoria di la vittoria di Sarraj e la vittoria di Erdogan sostanzialmente. Certo, l'articolo di Vincenzo Nigro, pagina 17, è molto buffa la situazione, perché non accada, hai avuto questo lapsus, perché è quasi più di un anno che Haftar si è presentato alle porte di Tripoli, ha detto: ecco, l'abbiamo conquistata, stiamo a 7 metri, a 3 metri, a 2 metri dalla vittoria, e adesso capovolgimento totale con l'aiuto, come tu hai appena ricordato, di Erdogan, dei turchi, come ricorda Nigro, Haftar, vedi anch'io il lapsus, Sarraj ha riconquistato, eravamo abituati, sembrava che ormai Haftar fosse l'uomo forte, vincitore. E quindi lo faremo sempre adesso, questo lapsus, almeno per qualche settimana. E invece Sarraj ha riconquistato Tripoli. Qual è la cosa buffa che mi viene da notare? Che noi eravamo stati fra i principali sostenitori di Sarraj, noi italiani, e questo con i governi di centrodestra, di centrosinistra prima, cioè destra e 5 Stelle, ancora all'inizio col governo 5 Stelle sinistra, e poi c'era sembrato anche loro, come i nostri due lapsus, che vincesse Haftar, e siccome l'Italia è un paese opportunista, aveva cambiato cavallo, dopo aver rischiato l'osso del collo, essere stato il primo paese che aveva aperto l'ambasciata a Tripoli, e avere lì degli interessi ovvi, che sono gli interessi dell'ENI, avevamo detto, ci eravamo messi in mezzo, avevamo fatto i furbi, e siamo stati puniti noi italiani, nel senso che mentre noi facevamo i furbi, Sarraj ha detto: sapete cosa c'è? Io mi rivolgo chiaramente, specialmente ai turchi che ci sostengono, con l'aiuto con il sostegno dei turchi ha riconquistato Tripoli, e noi ci troviamo un po' spezzati perché eravamo arrivati per ultimi a sostenere il suo rivale, e abbiamo, diciamo, meno titoli per presentarci come mediatori, e quindi a volte in politica internazionale avere un comportamento coerente, magari rischi di più, però queste furbate dell'Italia non sempre rischiano di non funzionare. Ho detto naturalmente che gli attori in campo, Paolo, a questo punto sono altri e non sono gli europei, direi francamente, i principali quantomeno. Chiaro, chiarissimo, però insomma, qualcosa da dire sull'Italia ci deve essere sempre, e comunque la parte principale del leone la fanno i funerali. Sì, come giornata dall'estero, sì, sicuramente i funerali di George Floyd, certo. Sì, e i funerali di George Floyd è tornato, insomma, le manifestazioni violente ci sono ancora, però sono molto minori, e soprattutto l'ex capo del Pentagono Mattis e altri generali assediano Trump e dicono: ma no, l'esercito, mandarlo a casa, e Trump sta tornando sulle sue decisioni di chiamare l'esercito. Questa, guardate, è una cosa molto importante negli Stati Uniti, perché un dissenso così profondo, così radicale fra il capo dello Stato e i capi del Pentagono non me le ricordo, insomma, così esplicito, e soprattutto che hanno costretto il presidente Trump a ritrattare le sue decisioni morali, a ritornare sulle sue decisioni morali. Di tutto questo cos'è? Che i sondaggi adesso sono veramente clamorosamente sfavorevoli a Trump, sì, e favorevoli al suo rivale Joe Biden. Se ne può trarre una morale: quanto più si allenta la violenza, tanto più Trump è in discesa. Quanto più aumenta la violenza nelle strade in tutti gli Stati Uniti, tanto più Trump ha possibilità, come hanno messo in rilievo molti osservatori, di farcela, perché poi di fronte a incendi dei negozi, macchine bruciate, devastate, scontri, morti e feriti, l'istinto degli americani è quello di rivolgersi al presidente in carica, sì, è come di fronte al virus in Italia, no? L'istinto ti porta naturalmente a rivolgerti a un potere cercando, sperando che sia sempre più saldo, e in questo caso più si allenta la tensione e più Trump perde punti, e a questo punto li perde veramente in modo grave. Insomma, direi che oggi la situazione per lui è molto molto difficile. A proposito di strade e di piazze, Paolo, ieri è stata la giornata nella quale, nonostante il divieto cinese, una parte, migliaia di persone, migliaia degli abitanti di Hong Kong sono scesi nelle strade con delle luci per ricordare l'anniversario della strage di Tiananmen dell'89. I giornali riportano queste foto, parlano anche della repressione di nuovo messa in atto anche dai cinesi. Questo è molto importante, perché fino all'altro ieri i giornali dicevano che di fronte alla durezza del regime cinese i dimostranti avevano un po' piegato la testa, insomma si erano, non dico rassegnati. Poi c'era stata questa mossa di Boris Johnson di offrire asilo politico, sostanzialmente il passaporto inglese, a 3 milioni di abitanti di Hong Kong, una mossa clamorosa, anche se in atto abbiano, anche possono arrivare milioni e milioni di cinesi in Gran Bretagna in un momento come questo. Però oggi invece, come tu hai giustamente notato, i manifestanti di Hong Kong hanno rialzato la testa in maniera molto consistente nell'anniversario di Tiananmen, e questo è un messaggio diretto al regime cinese. Significa che anche lì vedremo un seguito, insomma, non finisce qui. Senti, l'hai visto il pezzo in prima pagina sul giornale di Valeria Braghieri su questa storia della chiesa greca che scomunica lo yoga dicendo che è demoniaco, visto che siamo all'estero, siamo quasi in chiusura, fammi sorridere un po'. Allora, il Santo Sinodo, l'organo di governo della chiesa in Grecia che ha grande influenza sulla politica e sulla vita sociale, vuole impedire al monumentale esercito di infedeli col tappetino di proseguire oltre. Lo yoga è anche un aspetto fondamentale della religione indù, non è solo un esercizio fisico, e quindi basta, lo yoga è demoniaco. Tu pratichi yoga, Paolo? Sempre, sempre. Tu lo sai benissimo. Regolarmente, certo. Il saluto al sole tutte le mattine. Ricordati che a Modena domenica, ne parlo ampiamente il resto del Carlino, si festeggeranno gli 80 anni di Francesco Gucci. Sono previste feste, non assembramenti, ma grandi feste. Due pagine sul resto del Carlino, anche un ricordo di Mario Capanna che dice che Guccini è stato il grande ispiratore del 1968, e poi Guccini a sorpresa è entrato nella cinquina del Campiello, certo. Nella cinquina del Campiello, quindi forse vincerà il primo Campiello. Quest'anno, devo dire, festeggia gli 80 anni con i dovuti onori come cantautore, ma anche come uno dei più grandi scrittori italiani, incredibile. Cioè, sono favorevole, io sono membro lì, presidente addirittura della giuria del Campiello, quindi ho dato il mio contributo favorevole, e però devo dire inaspettato. Se Guccini vincesse il premio Campiello sarebbe un evento. Tra l'altro, fra i giurati del premio Campiello c'è anche Roberto Vecchioni, quindi c'è un gemellaggio fra due grandi del cantautore italiano. Allora Paolo, grazie Paolo Mieli anche per questa settimana, ci ritroviamo ovviamente lunedì, buon weekend, buon fine settimana. Grazie Paolo Mieli, noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella, parleremo, come vi dicevo, di giustizia, ma insomma oggi non affronteremo il tema di Palamara, delle intercettazioni, della magistratura, del CSM, delle correnti, ma di una giustizia che è ferma mentre il resto del paese riparte, o in gran parte ferma. chissà quanti di voi magari hanno qualche causa civile, gli hanno rinviato l'udienza e non si sa quanto si riprenderà, alcune udienze rinviate al 2023. E poi avremo il vice segretario del PD, Andrea Orlando, tra poco.